Ancora mi chiedo perché rimango a pensarti per ora. Una fotografia sulla mia scrivania darà calore anche nelle notti d'inverno. Quando mi sento solo averti accanto è solo quello che voglio. Ti penso giorno dopo giorno, secondo dopo secondo. Sei te che cerco e lo sento dal profondo dentro di me, dove solo i tuoi occhi possono arrivare. E se brilla la pupilla non riesco neanche a respirare, perché quando ti vedo non riesco a dirti ciò che provo realmente. Apro il cuore ma si blocca la mente. L'amore è come una montagna, quando sei al massimo hai raggiunto la vetta, inizia ad aver paura dell'altezza. Gli amici mi chiedono perché ti sto ancora appresso, io provo qualcosa per te, il mio amore non apprezzo. Io mi chiedo se mi penserai ancora adesso, non me lo dirai mai se il tuo orgoglio ti impedisce di ammetterlo. Torni in mente con una canzone, poche parole, ma la cantavi per ore. Giuro in quel momento ho cambiato umore, mi sono spento come un interruttore. È passato troppo tempo ma ancora non mi do una spiegazione. Quanto mi piaceva quando facevi la voce da bambina, ti incazzavi con la comitiva, provavi a fare la cattiva. La tua voglia di vivere ti rendeva sempre più attiva, ma il dolore dell'amore non conosce aspirina. Quando ti guardo negli occhi il mio cuore martella, pensa ciò che vuoi negli occhi, sarai sempre la più bella. Ma ora basta delusioni, vado alle conclusioni. A sto giro Pompino mi sa che ha dato le dimissioni. Cerco le parole per riempire una base che non riempirà il mio cuore, ma potrà trasmettere ogni mia emozione. E se riuscirà a farti percepire quello che sento, allora non sarà stato tempo perso.